9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Buongiorno, buon giovedì 2 febbraio da Oscar Giannino, caro ascoltatore di Radio 24. Il tema della puntata oggi è la RAI, ciò che ci consente di riflettere sulla RAI, rappresentato dalla vicenda dell'appuntamento clou annuale della RAI, cioè il Festival di Sanremo, che tra poco sarà il protagonista della consueta settimana, succedersi di serate dedicate alla canzone italiana, con una ricerca spasmodica di far meglio nell'audience e nell'inchiodare decine di milioni di italiani di fronte al teleschermo. E che cosa della condizione attuale della RAI, della contraddizione, del paradosso di un servizio pubblico che è ovviamente del tutto allineato alla richiesta di ascolti di una rete commerciale, rappresentato dalla vicenda dell'ospite più atteso, del personaggio attraverso il quale si fa crescere spasmodicamente l'aspettativa. Naturalmente l'obiettivo è quello di accrescere gli ascolti, cioè Adriano Celentano. Arriverò tra poco a dire come la penso e a chiedere a voi come la pensate e a quali riflessioni siate indotti dal compenso che Adriano Celentano, da chi lo rappresenta, è stato trattato come un compenso fino a un punto molto elevato. Si parla di 700 fino a 750 mila euro, ma Celentano ha detto naturalmente ne faccio l'utilizzo che voglio, lo do in beneficenza, lo do a Emergency di Gino Strada. Qualche minuto però prima di arrivare al punto lo dedichiamo al tema dell'Europa, al tema che ci spinge ogni giorno a tenere ancora The End of the Doors, per tenere alto l'allarme sulla condizione dell'euroarea anche dopo il vertice di lunedì e anche dopo questa discesa di spread che è in atto, che stamattina siamo qualche punto sotto i 383 di ieri, che hanno segnato 170 punti rispetto al massimo che avevamo raggiunto nel mese di novembre, 170 punti più in basso. Io rinvio tutti al fondo dell'editoriale, all'editoriale, perdonate, del Sole 24 Ore di oggi, del suo direttore Roberto Napoletano. Anche Roberto Napoletano sottolinea come sia un dovere tenere alta il livello della consapevolezza. Non c'è una svolta definitiva all'interno dell'euroarea. Bisogna evitare che il Portogallo segua la Grecia. I tassi portoghesi continuano a segnalare un allarme fortissimo nel caso di mancato accordo in Grecia. E la conclusione del direttore del Sole 24 Ore è che, poiché non possiamo permetterci un secondo caso Grecia con il Portogallo, per fortuna però, almeno questo è certo, non ci si potrà più nascondere dietro l'alibi italiano. Sulla stampa europea qualche rapido richiamo di quelli che più mi hanno colpito. Comincerei con il report della Banca Centrale Europea dedicato, si chiama tecnicamente Bank Lending Survey, è il report dedicato agli impieghi effettuati dalle banche nell'euroarea, che testimonia, è stato rilasciato ieri, che nel quarto trimestre conclusivo quindi del 2011, purtroppo la restrizione delle condizioni di credito praticate dalle banche è ulteriormente appesantita. Pensate che la restrizione di credito, quella che in gergo si usa un acronimo che è LTRO, dove T sta per tightening appunto, e della restrizione del credito, nel terzo trimestre per le banche europee era stata del 16%, nel quarto trimestre è del 35%, quindi questo significa che in questa prima parte dell'anno noi vedremo ulteriormente grandi difficoltà crescenti negli impieghi, alle famiglie e alle imprese. Proseguendo, andiamo alla vicenda greca, anche qui da Catamerini, che cito quasi tutti i giorni oramai, un aggiornamento sulle condizioni della trattativa aperta tra Fondo Monetario, BCE e Unione Europea, che premono perché il governo greco raggiunga l'accordo con la controparte privata, con l'IIF. Il dibattito in Parlamento è aperto e si incentra sulla necessità di come bilanciare tagli che la maggioranza parlamentare greca continua a considerare troppo pesanti, perdonatemi, e per evitare gli ulteriori tagli alle mensilità superiori a 12 l'anno per chi ancora le ha mantenute in Grecia, la controproposta è quella di tagliare del 20% a 600 euro mensili il salario minimo garantito a chi ne ha diritto. Non sono molti ad averne diritto, a dire la verità, in Grecia. Attualmente è a 751 euro, quindi un bel taglio, a dire la verità. Andiamo in Francia. Les Echos, il quotidiano economico, sottolinea, oggi inizia la visita di cancelliere tedesco in Cina, sottolinea come la Germania vada sempre più forte in Cina. Ci sono 5.000 aziende tedesche che complessivamente fanno direttamente business con una diretta presenza in Cina, non le esportatrici, sono molto di più, sono solo 900 quelle francesi. Se pensiamo che più di due terzi di tutte le automobili di lusso vendute in Cina, che è da 4 anni oramai il primo mercato al mondo dell'automobile, sono tedesche, questa cosa dà sola l'idea, scrive Les Echos, della forza che l'impresa manifatturiera esportatrice tedesca ha nei confronti di quella francese. Intanto, aggiornamento dei sondaggi, qui andiamo sulle Figaro, per le elettorali presidenziali di aprile in Francia. Ci sono tre sondaggi oggi che le Figaro riporta di tre diversi istituti demoscopici. Nel primo Hollande è in vantaggio con il 34%, migliora di 4 punti. Nel secondo è in vantaggio sempre Hollande col 31,5% e guadagna 0,5. Nel terzo è in vantaggio sempre con il 31% e guadagna il 3% in più. Sarkozy è o al 25, o al 26 o al 24,5. Eppure Figaro titola il presidente ancora convinto di vincere. Financial Times Deutschland, le critiche del presidente della Bundesbank, Jens Weidmann. Weidmann non è per niente convinto della bontà dell'euroaccordo di lunedì scorso. E il compact, il fiscal compact, è troppo elastico e consente agli euromembri di avere un margine eccessivo di interpretazione autonoma sulle condizioni di rigore anno per anno. Quindi la Bundesbank dice non basta, non basta, non basta. Infine, due ultime segnalazioni sulla sua column sullo Spiegel online, sull'edizione online in inglese. Wolfgang Münchau in effetti sostiene che le polemiche scatenate dopo l'indiscrezione attribuita a Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, secondo le quali la Germania avrebbe preferito commissariare direttamente la Grecia, quelle che hanno fatto infiammare i giorni del prevertice e che per la metà è stato dedicato alle assicurazioni tedesche, no, non mandiamo nella Luftwaffe nei nostri commissari ad Atene. In realtà Wolfgang Münchau torna un pochino a voce fredda sulla faccenda e dice questi tipi di commissariamenti in realtà sono impliciti nel fiscal compact, purché però anche la Germania, a differenza di quello che è avvenuto nel 2003, accettasse che potrebbero scattare anche per lei, e Wolfgang Münchau scommette che la politica tedesca non lo accetterebbe, esattamente come non lo ha accettato nel 2003. Andiamo al punto di oggi. Allora, la vicenda è quella di una Rai che è servizio pubblico, così si dichiara, che ha un comportamento in tutto e per tutto uguale alle reti commerciali. Le reti commerciali ovviamente devono massimizzare il costo contatto, devono fare ascolti per guadagnare più pubblicità. Il Festival di Sanremo è la più classica e canonica delle occasioni nelle quali un comportamento puramente da rete commerciale diventa il faro indicatore delle scelte di conduzione, come di ospiti, delle serate del Festival di Sanremo. Al mio giudizio, la vicenda di Adriano Celentano rappresenta una specie di paradosso, un'ipotiposi di questa contraddizione tra ciò che è e si dichiara servizio pubblico e per questo ci chiede il canone, e poi come si comporta in realtà. Ricordo a tutti che il canone è a propria volta un paradosso, perché il canone, che viene presentato e richiesto tutte le sere, in queste sere con particolare insistenza dai conduttori RAI, non è in realtà ciò che dobbiamo alla RAI perché svolga il suo servizio pubblico. Il canone è nel nostro ordinamento una tassa di possesso, quindi lo dobbiamo allo Stato, non alla RAI, ed è una tassa di possesso sugli apparati di ricezione, di qualunque tipo essi siano, anche lo schermo di un computer. Da questo punto di vista, a mio giudizio, questa definizione del canone ha ampi, ai miei occhi, problemi di costituzionalità, ma su questo io notoriamente sono un bastian contrari, come si dice a Torino. Detto questo, il canone che ci viene chiesto è per il servizio pubblico, il comportamento è da rete commerciale, si massimizza nella ricerca degli ascolti e quindi nei compensi elevati che servono a pareggiare il costo contatto, per così dire, di chi deve essere ospitato a Sanremo, in Adriano Celentano, figura di grande cantante italiano, su cui meriti e su cui valore di orientatore del pensiero civile non sta a me esprimere un giudizio, perché di sicuro io non lo considererei tale, ma rispetto al fatto che in una società di massa i personaggi dello spettacolo diventino inevitabilmente anche questo, arriva a trattare, quindi è molto attento al denaro, chi lo rappresenta, una cifra che potrà arrivare, abbiamo letto, fino a 750.000 euro di compenso, ma dichiara, e qui c'è il ribaltamento della questione, dichiara: eh no, io non sono dell'idea che questo mondo commerciale, sappiamo come la pensa Adriano Celentano, del mercato, del commercio, dei picchi di ingiustizia che tutto questo rappresenta, quindi io tratto, me lo porto a casa, molto considerevole, il canone che, ripeto, è un finanziamento di cui si lamenta sempre in Rai il fatto che non basti, malgrado sia stato appena alzato da questo governo, e me ne porto a casa fino a 750.000 euro, ma ribalto il tavolo, e quindi per me è un obolo, farò beneficenza e la darò a chi più mi pare, quindi coerentemente a quello che penso la darò a Emergency di Gino Strada. Domanda: ma se bisogna difendere la Rai come servizio pubblico, se si è contrari alla mercificazione, perché trattare un compenso così tanto elevato per dire un obolo? Non era allora forse più coerente, mi chiedo, dire: siccome sono contrario e voglio un servizio pubblico, anzi pretendo di andare in onda senza far controllare i miei testi, perché io i miei testi di rottura civile, come quelli di Grillo che voglio al mio fianco, sono esattamente l'inveramento del servizio pubblico che Celentano critica la RAI non essere da molti anni, eccetera. Non sarebbe stato più coerente dire: e tanto io ho un'idea forte del servizio pubblico, da non chiedere un euro e da lasciare la torta troppo ristretta del canone alla finalità che la RAI si riconcentri su questo servizio pubblico? No, la risposta è: i soldi ne voglio tanti e ne faccio quello che voglio, però ne faccio quello che contraddice la logica a cui si ispira il servizio pubblico diventato servizio commerciale. Ma io, più che descrivere la vicenda nella contraddizione, non voglio andare avanti, perché voglio guardarmi dal sembrare uno che utilizza vicende di questo tipo peraltro che su una riflessione sulla RAI. Non entro poi nelle polemiche, le lascio agli ospiti sulle vicende che in questi ultimi giorni avvampano nel consiglio d'amministrazione della RAI. Sapete perfettamente che siamo all'indomani di una nomina del direttore del TG1, non più a interim, ma cari, e della scelta di un direttore del TGR, che ha ricalcato l'attuale maggioranza del Consiglio di maggioranza, che è in linea con come questa legislatura era cominciata nel 2008, quindi è a maggioranza di centrodestra. Le scelte sono state di centrodestra. Il presidente Galimberti ha protestato durissimamente, il consigliere Rizzo Nervo si è dimesso e quindi siamo all'ennesima conferma di ciò che sappiamo da decenni: la RAI non è capace, per questo meccanismo di governance, di essere altro che un fedele specchio degli equilibri di partito, con tutto ciò che riguarda direzioni, conduzioni, eccetera, allineato a questo comportamento, tanto per recuperare il senso vero di come il cosiddetto canone da servizio pubblico, in realtà tassa di possesso degli apparati di ricezione, non abbia poi un corrispettivo nei comportamenti concreti. Tuttavia, sentiamo come la pensano i nostri ospiti. Abbiamo innanzitutto con noi Massimo Bernardini, che è giornalista e conduttore di TV Talk su Rai 3. Buongiorno e grazie. Buongiorno a Massimo Bernardini. Buongiorno Giannina. E Alessandra Comazzi, che è giornalista della Stampa e da tempo, da anni, segue appunto le vicende televisive. Buongiorno e grazie Alessandra Comazzi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come la pensa Alessandra Comazzi di questa vicenda? Guarda, la contraddizione che hai enunciato prima tu è esattamente quella che ho scritto anche io questa mattina sulla Stampa. Se non fosse stato più opportuno quel punto lì, come in fondo fece Benigni l'altro anno, che Celentano non chiedesse, non pretendesse di trattare questa cifra esorbitante, ancorché dandola in beneficenza, pagandoci le tasse, tutto quello che vuoi, perché comunque non dobbiamo nemmeno dimenticare il periodo in cui viviamo, in quest'ansia di sobrietà, no? La parola di moda e di moralizzazione. Io credo veramente che certi cachet siano comunque esorbitanti. Non deve passare il concetto di lavoro gratuito, benissimo, ma un personale non può passare in un giornalista o in un artista giovane che effettivamente è spesso sfruttato, ma in uno come Celentano il bel gesto poteva essere un altro e non quello che ritiene di aver fatto lui. Ma da questo punto di vista, se dovessi azzardare un'ipotesi da osservatrice, sì. Il personaggio Celentano in questo modo ci fa discutere e comunque, oppure in realtà agli occhi della gente sarà semplicemente un altro modo di costruirsi popolarità a buon mercato? Eccolo lì, guarda, nel fenomeno annuale, perché puntuale proprio con un orologio svizzero, comincia la telenovela, ce n'è sempre una volta adesso è Celentano, ma una volta è Benigni, una volta è Eminem, una volta c'è sempre il personaggio, la polemica di sfondo che prepara l'evento, no? Come dicono loro, che comincia, scusate la brutta parola, a fidelizzare il pubblico. Io credo che questo si aiuta a incuriosire su Celentano, l'indignazione aiuta. Infatti io mi chiedo se non sia alla fine tutta una manovra orchestrata da qualche, o forse no, perché non possiamo nemmeno pensare che alla RAI ormai ci siano delle teste così fini da organizzare una roba del genere. Possono dire sì, facciamo un po' di polverone e trovano qualcosa, ecco. Detto questo, di sicuro lo scopo è raggiunto, perché chi vive nel mondo, come me, che vado nei bar a fare la spesa, eccetera, oggettivamente di questo fatto Celentano, ramo indignazione, vergogna, prende troppo, non sono certo questi tempi per dargli tutti questi soldi, e chi se ne frega se li dà in beneficenza, li poteva dare in beneficenza alla RAI, che hanno le pezze al sedere, una balla e l'altra, aiuterà come sempre ad alzare gli ascolti. Per quello che poi dirà Celentano, è possibile, se dovremo fare attenzione come al solito noi critici televisivi e noi cronisti a stare a sentire quello che dice, perché ricordiamo una per tutte la sua intemerata sulla caccia, contro la caccia, il giorno prima del referendum, che naturalmente lasciò il parco dello spettacolo per andare nel parco ancora più vasto della politica. Sì, temo anch'io questo, però insomma fare beneficenza con i soldi che non degli sono altri, solo degli altri, ma sono dei cittadini, in questo caso è una tassa, cioè la tassa per beneficenza contrabbandata per servizio pubblico della RAI è veramente una cosa che mi fa riflettere. Perché tutto questo incrocia giustamente con il fatto del servizio pubblico, ma quanto ci hanno martellato con questi 112 euro di canone, questi conduttori, questi giornalisti che sembravano persino vergognosi alla fine di ogni programma, alla fine di ogni TG, ricordate il canone, e poi ci rispondete in questo modo. Dove, tra l'altro, io vorrei anche sfatare il luogo comune della cattiva televisione, la Rai generalista fa soltanto delle stupidaggini. Non è vero, perché ci sono i buoni programmi. Certamente il concetto di servizio pubblico alla non è mai troppo tardi, cioè insegniamo l'italiano agli italiani, adesso potrebbero insegnarlo gli stranieri o l'inglese agli italiani, non lo so, faccio esempi banali, questa idea qua oggettivamente è lontana mille miglia ed è sbagliatissimo, perché dalla RAI si pretende, il cittadino, lo spettatore tende a pretendere di più, perché la sente come sua. La RAI dovrebbe anche approfittare, tra virgolette, secondo me, di questo grande patrimonio che ha. E invece no, ovviamente no. E invece se lentaneggia. Bernardini. Allora, innanzitutto nelle tue analisi, nelle sue analisi, Giannino, io in realtà mi ci riconosco sempre, però stavolta ci sono due elementi che ha saltato. Il primo è che questa somma, appunto, che ha descritto benissimo anche nelle sue contraddizioni, questa somma del canone, bisogna ricordarsi che è fra le più basse in Europa, e voglio dire, per poco più di 100 euro all'anno, pensiamo a quello che chi ce l'ha, insomma, chi se lo può permettere spende per Sky ogni mese, per poco più di 100 all'anno, io per dire, per esempio, la prima ragione per cui io pago il canone veramente contento è che ci sono le dirette dai teatri lirici di Radio 3 e ce ne sono 50 all'anno, voglio dire, e sono strepitose, cioè, voglio dire, anche solo per quello pagare poco più di 100 euro secondo me è veramente, cioè va un po' sfatata l'idea che questo balzello sia così oneroso e così sbilanciato. Se uno guarda a quel che costa la BBC eccetera eccetera, insomma, secondo me questo non è vero. Aggiungo un'altra cosa su qui, però questa è un po' più sottile, l'idea che Celentano abbia un pensiero è un po' ardua, nel senso che io ho l'impressione che attribuirgli questo status sociale, social-politico, social-partitico, non so come dire, ormai mi fa un po' fatica, posso dirlo, nel senso che io non lo so che cosa pensi veramente Celentano, e quello che pensa secondo me non è così stupefacente oggi, anno domini 2012. Quindi stiamo parlando di una, secondo me, in sostanza di una piccola cosa che sta facendo un gran rumore per le ragioni che la Comazzi ha sottolineato, da vecchia cronista come me sa benissimo. Da giovane cronista. No, vecchia, nel senso che sono tanti anni che seguiamo sto benedetto festival e sappiamo che succede, come dire, questi ballon d'essai a cosa servono, lo sappiamo benissimo. Ecco, non attribuiamo troppo pensiero a Celentano. E non facciamo, secondo me, troppo i moralisti rispetto a questa faccenda, perché sennò ci tocca poi ridurci a questa misura su tutto. Allora, siccome ne abbiamo parlato altre volte per Minzolini, abbiamo parlato altre volte per Santoro, cioè, secondo me non è questa la misura. Trovo moralistica, per esempio nel caso di Celentano, l'idea della beneficenza finale. Ecco, la trovo una mossa moralistica, non una mossa intelligente, è una mossa appunto che reagisce al rumor che si fa nei bar, ecco, è un po' poco, tutto questo mi sembra molto poco, molto molto poco. E naturalmente sarebbe troppo facile replicare da parte mia a Bernardini sul fatto che l'onerosità più contenuta dei 112 euro, passati da 100 a 112 euro il canone, non trova corrispettivo però nei modelli di governance della BBC. Io francamente penso che una tassa sul possesso degli apparati di ricezione applicata a un servizio pubblico che poi è lo specchio fedele di equilibri di partito, francamente è una cosa che a me nei decenni mi ha provocato delle reazioni di crescente indignazione. Io mi sono trovato una volta nella vita, poiché ero portavoce nazionale di un partito, a dover trattare delle nomine. Il mio massimo divertimento fu molti anni fa proporre direttore del giornale radio del GR1, all'epoca era la testata leader della radiofonia, un direttore dell'Espresso che era invisissimo a Craxi, e lo fece appunto apposta a tirare fuori quel nome e mi sbellicai dalla risa perché per un'intera nottata si bloccò il consiglio di amministrazione perché inventavano scuse pur di non mettere Zanetti, uno strepitoso giornalista, uno che ha fatto la storia del giornalismo italiano, e arrivarono al punto di dire che era troppo anziano per poter fare un contratto a tempo indeterminato. Io dissi: per la prima volta fate un contratto a un direttore a tempo determinato, così non continueremo a pagarli a vita non appena le prossime elezioni ovviamente verranno scalzati via. Ecco, ma per dire, io trovo che la RAI sì, fa ottime cose, ne potrebbe fare di migliori se poi bravi professionisti non dovessero fare il conto sempre con questa macchina dei partiti, e i partiti in realtà secondo me non saranno mai capaci di autodistaccarsi dalla RAI. Non ci credo alla riforma, io credo che il servizio pubblico si possa far gestire da privati che vincano una gara in cui si definisce lo standard di servizio, e se fanno sinergia oltre alla parte privata in cui raccolgono soldi e fanno impresa editoriale e impresa televisiva, c'è un'altra parte che a quel punto con la pubblicità c'entra niente, che è organizzata in un altro modo e che ha uno standard di servizio remunerato sì con un canone, ma lo standard di servizio secondo me non può implicare ibridi rispetto alle logiche commerciali. Il mio modello ideale, che non sarà mai applicato. Eccoci tornati qua in studio, la RAI, il servizio pubblico, le contraddizioni del altissimo cachet contrattato con una certa forza da chi rappresentava l'ospite di cui si parla nel Rio Adriano Celentano, che però dice: io lo uso come un obolo e lo do a Emergency. E quindi vi faccio notare quanto questo eccesso, questo fiume di denaro che pure ci tengo ad avere, sottolinea ai vostri occhi la contraddizione di un servizio pubblico non servizio pubblico. Iniziamo a sentire come la pensate voi ascoltatori. Cominciamo con Alberto da Vicenza. Prego Alberto. Buongiorno Giannino, sempre incisivo come sempre. Niente, voi avete già praticamente detto tutto, sono rimaste secondo me solo due battute da fare. Una è che Celentano in questa occasione, come Benigni, ricorda un po' Ricucci, con la famosa battuta: è molto facile fare e non battere. La seconda cosa è che a me è capitato di ascoltare in diretta su una radio diversa un incontro tra dirigenti RAI che parlavano appunto di canone RAI e che si lamentavano del fatto che non bastassero mai i soldi. Il problema secondo me è molto semplice: com'è possibile che altre strutture private con un decimo del personale riescono a ottenere dei risultati molto più importanti rispetto a una RAI che ormai è diventato un posticcio più che un'azienda pubblica che possa dare un servizio pubblico? Queste sono le due cose sole, secondo me, che sono rimaste da dire. Forse ridimensionare la RAI sarebbe la cosa finalmente importante da fare. Tra l'altro, Alberto, a me tocca dire, avendo mi è capitato di lavorare in altri anni, poi non più, io ho condotto una trasmissione che andava dopo il TG1, poi me la levarono malgrado i buoni ascolti, perché la politica non gradiva il fatto che non concordassi ospiti e temi e la facessi in diretta, e avevo all'epoca a disposizione una redazione che, tutto compreso, arrivava per 5 minuti di diretta quasi a 40 persone, di cui non feci praticamente mai uso, e mi rendevo conto come nasceva. Io devo dire tre cose. Primo, in RAI l'eccesso di dipendenti e di collaboratori esterni, sommando le due cose arriviamo quasi a 40.000 persone, si deve al fatto che le strutture, le reti, le redazioni procedono per stratificazione successiva, perché a ogni nomina e ogni cambio di vertice ovviamente i predecessori rimangono stratificati anche se magari gli si leva le funzioni. Tenete conto che tutto questo avviene non in un bengodi di chissà quali retribuzioni. La RAI è un'azienda che nei decenni è andata avanti con una sempre più alta percentuale di contratti a tempo, e ci sono tantissime ottime risorse nei programmisti che stanno lì da anni e sono una spina dorsale, sono diventati la spina dorsale dell'azienda, davvero lo dico con grande ammirazione nei loro confronti, che fanno una vita da precaria a quattro soldi, mentre poi quelle sono le cifre che vanno ai grandi conduttori e ai grandi appuntamenti clou. Anche quella è una contraddizione nella contraddizione. Noi dimentichiamo, in questo paese siamo tutti qui mentre si parla di riforma del mercato del lavoro a dire no al precariato, dimentichiamo che il più del precariato è nella pubblica amministrazione. Sentiamo come la pensa Marco da Piacenza. Buon Buongiorno, io volevo soltanto disquisire sul fatto che comunque anche a suo tempo, quando ci fu Bonolis, Fortuno di Bonolis, furono dati a lui e al suo entourage un sacco di soldi. Credo che lui da solo prendesse 1 milione di euro a puntata, per 4-5 puntate. E comunque non è nuova questa storia dei cachet milionari a Sanremo. Voglio dire, ci sono sempre stati per pagare gli ospiti, perché... Ma è giusto che ci siano, cioè, o è la rassegnazione che la ispira? Ma io credo che comunque anche l'arte fine a se stessa, quindi l'essere un personaggio, avere costruito un'immagine, così abbia un costo, e che quando, voglio dire, sei ricercato, è giusto che ti paghino, ecco. Ah, no, ma... se lei, Zanino, verrà chiamato a condurre, che ne so, il TG1, non credo. Chiederà anche lei tantissimi soldi. Non credo che capiterà, guardi, le posso escludere, anche perché sa quale sarebbe la mia vera prima proposta? Farei un dibattito al TG1 di 10 minuti con due ospiti, 8 minuti perché i tempi televisivi non consentono di andare oltre i 6 minuti con due ospiti, con una domanda. La mia domanda iniziale della mia prima conduzione del TG1 come direttore del TG1 sarebbe questa: che ne dite, 1 milione di dipendenti pubblici, di continuare a pagarli, di far maturare loro il pieno diritto alla pensione senza toccargli quindi assolutamente nulla dei diritti economici, ma di proporre loro di stare a casa e di non venire più al posto di lavoro per razionalizzare meglio il lavoro dei restanti? Tra quello che continueremmo a pagare e quello che ci guadagneremmo, io sono convinto che l'Italia ci guadagnerebbe. Questa sarebbe la mia prima proposta. Non credo che mi faranno mai condurre il TG1. Sentiamo come la pensa Paolo da Milano. Pronto? Pronto? Dica Paola, dica. Sì, buongiorno. Innanzitutto la mia stima per la sua persona. Però nella trasmissione di oggi, secondo me, ha fatto un po' di acqua. Perché benissimo ha fatto Celentano. Io non conosco il Celentano pensiero, però innanzitutto si è comportato, è stato molto abile. E io lo farei un tipo un PM di qualche multinazionale, perché è stato molto bravo. Dopodiché, il fatto che ha chiesto un cachet milionario, ma sulla scia dei precedenti, no? Mi sembra che sono dei precedenti. Però attenzione, il problema nostro oggi qui non è fare i moralisti sui soldi di Celentano, ma il fatto che poi lui ribalta il ragionamento e dice: lo utilizzo come obolo e lo do a Emergency. Perché se la fetta è stretta e lui difende il servizio pubblico, anzi dice non è il servizio pubblico, non fa parlare abbastanza quelli come lui di temi civili e Grillo, e poi si prende i soldi ma li dà a Emergency, vuole sottolineare una contraddizione. Noi di questo ci occupiamo oggi, non facciamo i moralisti in tasca a Celentano, Paolo. Come vuole, ai vari direttori, agli amici degli amici? Allora la sua cosa è: piuttosto che dargli a quelli, tanto vale, Celentano fa bene a prendersi. Allora questo lo capisco meglio. Comazzi, lei crede, o cosa si aspetta, siccome viviamo in un'attesa che il governo, Premier Monti, ha fatto capire che prenderà rapidamente in pugno la questione Rai, è quello che ha promesso un mese fa alla conferenza stampa di fine anno. Certo. Ma da questo tipo di governo, con questo tipo di maggioranza, secondo lei è più facile aspettarsi un intervento sulla Rai, o in realtà, per la contraddizione che non lo consente, visto che lì è sempre un governo di partito quello che si afferma nella maggioranza, è un po' impossibile aspettarsela? Lei che si aspetta? Mi aspetto che sarà molto difficile, come lei ha detto giustamente prima: i partiti dalla RAI non usciranno mai da soli. Il punto è: questo governo può avere la forza per farceli uscire? Io temo di no. C'è un tale intreccio che da districarsene è molto difficile. Ci vorrebbe, non lo so, un intero governo dedicato, e non possiamo chiedere nemmeno quello. Volevo soltanto fare, anche a proposito, ritorno al canone, a quello che si diceva anche con Bernardini, che è vero che paghiamo meno, ma credo che potremmo anche pagare di più se per caso non vedessimo, per esempio, non dico tanto Sanremo, perché si parla tanto di Celentano e di Sanremo, ma io non vorrei vedere su una TV pubblica per la quale pago il canone l'Isola dei Famosi, tanto per dirne un'altra, quindi ci sono anche ci sono anche trasmissioni sulle quali sui cui costi si potrebbe discutere comunque anche di più di Celentano, che è eclatante e il cui pensiero effettivamente è un po' il famoso pensiero debole alla Vattimo. Però non si può nemmeno negare che fa curiosità, questo sì, e quindi cavalcano la tigre. Vi ricordate il festival della Simona Ventura, quello sfortunato che aveva fatto dove c'era lo sciopero dei discografici, quindi non erano arrivate le canzoni. All'ultima sera arrivò l'epifania celentanesca e trac, come d'incanto le sorti del festival si risollevarono, quindi l'uomo indubbiamente ha talento. Io rimango modestissimamente, Alessandra Comazzi, della mia opinione. Un servizio pubblico, in effetti, non solo dovrebbe avere i suoi fondi, dovrebbe proprio informare tutto il suo palinsesto a un'idea di servizio pubblico. Allora, in quel caso, io dico bisogna essere pronti ad accettare l'idea di farlo senza pubblicità, perché a quel punto io giustifico pienamente il fatto anche di un canone più elevato, eccetera, eccetera. Io credo che l'ibrido fatto poi per reggere uno schema partitico sia invece una penosa rilettura all'italiana di che cos'è il servizio pubblico in grandi paesi europei, in grandi tradizioni, che poi sono diverse, perché quello francese non era quello britannico, però insomma, voglio dire, non so, tutta questa fierezza noi possiamo averla. Quello che mi spaventa, e ti chiedo un'ultima considerazione perché so che ci devi abbandonare, è questa nostra, lo dico come comunità dell'informazione, e lo dico parlando per me, non lo attribuisco né a te né agli altri colleghi, un po' la rassegnazione che poi alla fine non si riesca mai a uscirne fuori. Tanto non si cambia mai, certo. Questa rassegnazione credo che dovremmo, forse no, il giorno che quelli come me che sono passati per la politica andranno a casa, ci saranno una generazione di giornalisti più giovani e più determinati a rismontarla questa baracca. Almeno questo io me lo auguro, però non lo so. Speriamo, auguriamocelo, è vero. Va bene, intanto ti ringrazio. Noi adesso abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale. Ripartono i Doors come ogni fine trasmissione, come ogni inizio trasmissione, negli sms che sono arrivati al 2386666349 il prefisso. Alcuni dicono che sono abbastanza servo invece da andare domani al TG1. Beh, mi fa sempre piacere che ci sia qualcuno che a cui non sono riuscito a trasmettere in anni che sono qui, evidentemente un grammo delle mie convinzioni, e mi dispiace ovviamente, ma tanti altri dicono sì, Celentano come Benigni. C'è chi critica la devoluzione a Emergency, e per completezza dovevo ricordare anche che Adriano Celentano ha detto che darà a una serie di famiglie scelte in alcuni comuni italiani, famiglie povere, e per questo ha chiesto di sentire i sindaci di queste città. Avevo dimenticato di dirlo, ringrazio chi me lo fa notare. Andiamo avanti ancora con le telefonate. Ci ha chiamato Alessandra Celentano, che in Amici molti di voi vedranno nella trasmissione Amici, e sentiamo la sua opinione. Buongiorno e grazie innanzitutto per la telefonata. Buongiorno signor Giannino. Allora, senta, io non vorrei entrare in merito alla discussione perché ovviamente sarei di parte. Volevo solamente dire che non credo sia giusto appunto dire che mio zio, che è facile fare beneficenza con i soldi degli altri. Ecco, io volevo dire solo questa cosa qui. No, è facile dirlo, però molti lo dicono, quindi noi siamo qua per ragionare. No, infatti, no, io volevo solamente contestare questo ragionamento, perché non credo sia giusto fare questa affermazione. No, ho capito. Innanzitutto la ringrazio anche per farmi riflettere su un'altra cosa, che così può sembrare, e questa non era la mia intenzione, che ci fosse alcuna allusione nel riferire commenti di chi riportava quella frase, che io voglia dare, o mi permette di dare un giudizio su cosa poi fa dei suoi denari Adriano Celentano, che sicuramente, per come la pensa, darà anche altri e tanti aiuti. Quindi non vorrei, ha fatto bene e la ringrazio per questa telefonata, non c'è minimamente questa intenzione, e mi permette di chiarirla meglio. Il problema è il ribaltamento che nel gesto di Adriano Celentano c'è tra un alto cachet che insiste su un canone che viene lamentato dalla RAI come troppo basso rispetto al fatto che poi è sempre in sforamento del suo bilancio la RAI, rispetto poi all'utilizzo che è paradossalmente devoluto appunto a cause di beneficenza, seppur civile, Emergency dei poveri. Ma il nocciolo del ragionamento era quello, non contestare il fatto che Celentano faccia di questo come di altre parti delle sue risorse anche utilizzi civili e di beneficenza. Antonella da Roma, come la pensa? Buongiorno dottor Giannino, e complimenti per, sono una sua grande stima di vice, il grazie. Pensiero. No, io come la penso? La mia è stata subito un'indignazione forte, come ho sentito tutte le polemiche, ma la mia indignazione non va tanto a quello che Celentano e come arriva Celentano, il perché tanto divismo, tante persone che riescono a diventare così dire da perdere l'umiltà e sentirsi padroni di condurre certe cose. Ma questo quello che mi dà fastidio, quello che mi indigna, è vedere che tanta gente si indigna, ma non capisce che poi siamo noi che possiamo dirigere dal basso e le nostre proteste si dovrebbero far sentire con delle dimostrazioni più pratiche, tipo non vedere la trasmissione, che mi sembra la cosa più semplice da fare. Invece tanta gente critica, ma poi non usa la capacità che ha di bloccare certi meccanismi. Signora, posso chiederle una riflessione in più? L'eccesso di divismo che lei lamenta, lo lamenta in generale come comportamenti eccessivi di molte star, dello spettacolo, della canzone e così via, o in questo caso a darle più fastidio ancora, perché lei ha parlato di eccessi di divismo, c'è l'aspetto di polemica pubblica che poi fa fare alla star di turno, la fa esorbitare, perché a suo pieno diritto a quel punto si mette a fare il comizio in diretta, la battuta politica, il discorso sui limiti. Sì, è proprio questo che mi indigna. È proprio questa seconda cosa, avevo capito bene. Lei è sempre preciso, indovina sempre il pensiero anche delle persone come me, che umilmente non è che sono molto, però è proprio quello che mi indigna. Vedere quanta gente poi è pronta e poi è la prima che fa, cioè andando lì a vedere, a curiosare le trasmissioni che non ti stanno bene, e fa crescere questo modo di agire, e questo non lo trovo coerente. Senta signora, lei è come rispetto al canone RAI, ai 112 euro che diventa da quest'anno la spesa per il canone RAI, e rispetto al fatto che da anni ha assistito a come la RAI si è strutturata, come si è evoluta nel tempo, che opinione ha rispetto al canone, al servizio che la RAI le dà come telespettatrice? Ma io la televisione la guardo pochissimo, perché a me non piace come viene gestita la... perché vede, io queste persone, cioè io sarei disposta a pagare il canone e anche di più se ci fosse della qualità nella RAI, ma qualità nel senso, ecco, di persone che fanno il loro dovere, perché per me una persona come Celentano, se mi viene proposta per cantare e ha il suo giusto, perché c'è gente che si merita anche dei buoni guadagni eccetera, però è, cioè, mi sento invece da alcune trasmissioni, vedo proprio, sento considerata il cittadino che guarda la televisione come uno stupido, e quindi io la guardo pochissimo, pago il canone perché chiaramente faccio tutto quello che deve fare un cittadino onesto, prendendo anche tante bastonate, però certo. Mi sento... io sento sempre la radio, per esempio. Vabbè, ma questo è perché noi siamo appassionati. Ma infatti devo ammettere anch'io. Io penso. Io sto con la radio accesa, la televisione, vedo qualche film. Quindi sento che questo canone non è, ma non perché sia alto. No, ho capito, rispetto al corrispettivo. Qualità... E questa voleva essere anche la mia riflessione conclusiva. Il problema è che il Festival di Sanremo rappresenta ogni anno l'esatto capovolgimento, è intenzionale, perché è il massimo, è l'acme, è la punta più alta di che cosa è una rete commerciale, perché questo deve fare una rete commerciale, fare discutere, appassionare, creare casi. Il servizio pubblico dovrebbe essere tutt'altra cosa. Per questo, per me, quei 112 euro sono mal pagati, è una imposta che diventa un canone, la dobbiamo allo Stato e se la prende la RAI, e alla RAI non basta. È una classica contraddizione che dice che lo Stato è il nemico. Nemico! La mia conclusione vale anche per il caso Celentano. Viva Celentano, ma lo Stato no, abbasso. Radio 24. La passione si sente.